GR24, il sole 24 ore. Legge di stabilità, il governo va avanti, l'allarme dall'Istat, penalizzate le famiglie con figli. Napolitano, attenzione a non buttare a mare quanto fatto in 11 mesi. Sentenza per il terremoto all'Aquila, si dimette il presidente della commissione Grandi Rischi, il ministro Clini è a GR24, confusione di ruoli tra scienza e politica. Finmeccanica, indagato Scaiola, in manette un dirigente per l'inchiesta di Napoli. Obama Romney, show nell'ultimo confronto tra baionette e cavalli. E buongiorno dunque dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Va avanti, come dicevamo, il cammino della legge di stabilità. Questa mattina a parlare davanti alla commissione, alla Camera, è stato il presidente dell'Istat che ha lanciato però un allarme per le famiglie, ma è arrivata anche la replica del ministro Grilli. E allora cominciamo da qui. Respinge le critiche alla legge di stabilità il responsabile dell'economia Vittorio Grilli e soprattutto ne rivendica l'equità a partire dalle misure IRPEF che coinvolgono oltre 30 milioni di contribuenti con un beneficio medio pro capite di 160 euro. Difende poi la combinazione tra l'aumento di un punto in più di IVA dal 1 luglio del 2013 invece di due e proprio l'abbassamento di due punti delle prime aliquote IRPEF. A nostro parere, un impatto positivo sia dal punto di vista della redistribuzione e dell'impatto sulla domanda che dell'equità del sistema. Pallidi segnali di ripresa, intanto si vedono, secondo il presidente dell'Istat Enrico Giovannini. Ulteriori segnali incoraggianti, ancorché non univoci, sono emersi anche dalle ultime settimane. Peraltro la cautela nell'interpretazione di questi dati è d'obbligo. Ma i dati dicono che sono ancora in sofferenza le famiglie, la cui propensione al risparmio ha toccato il minimo storico. L'aumento dell'IVA interessa infatti l'80% della spesa per i consumi, mentre la riduzione dell'IRPEF, che farà risparmiare in media 240 euro per famiglia, porterà però meno benefici a quelle con figli, soprattutto minori, e alle donne che li curano. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Il punto di Stefano Folli. Cosa sta accadendo alla legge di stabilità? Sotto la pressione dei partiti della strana maggioranza, molte sue parti sono in via di riscrittura. Può essere la prova delle capacità di mediazione del Presidente del Consiglio, ma anche del fatto forse che sarebbe stato meglio discutere prima con le forze politiche alcuni passaggi chiave, proprio per non doverli ridiscutere dopo. In ogni caso ci stiamo avvicinando alle elezioni e il clima non è buono. I partiti si allontanano da Monti per cercare consensi elettorali, ma con ogni evidenza non hanno un'idea forte e tantomeno condivisa sul governo dell'Italia. A sua volta il governo tecnico ha dato quello che poteva dare e ormai sta incontrando i suoi limiti. Le contestazioni a essa Fornero sono un segnale, un brutto segnale. Speriamo che non siano qualcosa di peggio. La lacerazione sociale del paese è un rischio che non possiamo assolutamente permetterci. E poco fa l'ammonimento del capo dello Stato, attenzione, dice Napolitano, a non buttare a mare i sacrifici che abbiamo già fatto. È così, Vincenzo Miglietta? Sì, buongiorno, è così, è un invito ad andare avanti sulla strada delle riforme, quello che arriva dal capo dello Stato. Non abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi 12 mesi per poi buttarne via i benefici, spiega Napolitano, per il quale siamo passati da una situazione d'emergenza ad una fase di stabilizzazione. Il Presidente della Repubblica fa quindi complimenti a Monti, il Premier, dice Napolitano, ha avviato una profonda fase di risanamento dei conti pubblici e ha varato una serie impressionante di riforme. Il capo dello Stato guarda quindi al futuro e per il dopo Monti dice di avere fiducia nella saggezza degli italiani e proprio Monti intanto questa mattina ha fatto riferimento alla crisi economica, agli strumenti europei per garantire la disciplina di bilancio, bocciando di fatto l'ipotesi di un supercommissario. Sentiamo allora questo passaggio. Noi siamo molto favorevoli a un serio enforcement nella disciplina di bilancio, ma abbiamo già una lunga serie di strumenti. Si dà prova di scarsa fiducia nella capacità dell'Europa di applicare le decisioni che ha preso, se ogni volta ci si sente nella necessità di trovare un altro meccanismo. Quanto alla lotta alla corruzione, ha spiegato Monti, fa bene all'Italia e all'immagine del Paese. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. In qualche modo a rispondere a Monti è il presidente permanente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, sta parlando proprio in questi minuti al Parlamento di Strasburgo e poco fa ha detto: nei prossimi mesi andremo a toccare il tabù della sovranità e della solidarietà in Europa. Ma noi voltiamo pagina ora per tornare ancora sulla sentenza che ha condannato a 6 anni per omicidio colposo gli esperti della Commissione Grandi Rischi per avvertimenti insufficienti nei giorni precedenti il terremoto all'Aquila. Dubbi, critiche e commenti arrivano oggi, allora questa mattina ne abbiamo parlato con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Il rischio è che si sia affermato il principio che non è ammesso il dubbio o che non sono ammessi margini di incertezza in una valutazione scientifica, in una previsione, soprattutto perché lì stiamo parlando di previsioni. Io credo che si debba restituire ad ogni componente della vita sociale il suo ruolo, e il ruolo della scienza non è quello della politica e non è neanche quello dell'amministrazione. Probabilmente c'è un po' di confusione di ruoli. Non crede che almeno in una fase storica anche gli scienziati si siano arrogati forse ruoli che non erano loro? Questo può essere, questo può capitare. Sostanzialmente questo avviene sempre quando le istituzioni non sono credibili. Gli scienziati devono dare le loro valutazioni, devono fare le loro previsioni, devono dare i loro scenari, e poi è la politica che deve assumere la decisione. Misure cautelative che a volte possono essere esagerate, altre volte invece sono utili per prevenire poi danni. Tra i condannati c'è anche De Bernardinis, vice di Guido Bertolaso, allora capo della Protezione Civile, mentre per Bertolaso si farà un processo a parte. E agli atti c'è anche una intercettazione del 30 marzo 2009, proprio di Bertolaso, a pochi giorni dal terremoto. Allora ve la facciamo risentire. Adesso De Bernardinis ti chiama per dirti dove volete fare la riunione. Io non vengo, ma vengono Zamberletti, Barberi, Boschi, quindi i luminari del terremoto d'Italia. Li faccio venire all'Aquila, o da te o in prefettura, decidete voi, a me non me ne frega niente, in modo che è più un'operazione mediatica, hai capito? Sì, sì. Così loro, che sono i massimi esperti di terremoti, diranno è una situazione normale, sono fenomeni che si verificano, perché vogliamo tranquillizzare la gente. E invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia. Così parlava Bertolaso una settimana dopo il terremoto all'Aquila. E allora Valentina Furlanetto ha sentito questa mattina uno dei condannati che avete sentito anche citato nelle intercettazioni, Enzo Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Non ce la faccio anche più a parlare, perché è una cosa talmente assurda che non riesco a capacitare. Uno scienziato non è che prende decisioni, fornisce informazioni nei limiti delle sue capacità. Io non ho rassicurato nessuno, non ho mai detto stare tranquilli, non so di che cosa mi accusano. Diceva però che la riunione era stata molto veloce, più di quello che lei si aspettava. Sì, lo scopo era quello di dire che non si possono prevedere terremoti, ma questo l'ho capito dopo la riunione. Si è sentito usato? Tutto è una cosa strana, ci devo riflettere sopra, insomma. A posteriori forse far parte di una commissione grandi rischi forse non le ha giovato. Grandirischi, come era fatto una volta, funzionava benissimo. Una volta, quando la creò Zamberletti, era decisamente separata. Beh, anche la protezione civile di Zamberletti era molto diversa. Sì, era decisamente separata. Che effetto le fa sentire le intercettazioni di Bertolaso, che dice chiamiamo gli scienziati a dire che va tutto bene? Mi viene da piangere e da battere la testa contro il muro. Così dunque Boschi, bufera tutt'altro che finita, perché l'avete sentito nei titoli. Questa mattina intanto sono arrivate delle dimissioni. Alessandra Schepisi, che succede? Sì, è così, l'aveva annunciato e così è stato. Luciano Maiani si è dimesso dall'incarico di presidente della Commissione Grandi Rischi. Maiani, illustre fisico, in passato anche direttore del CERN di Ginevra, ha detto di non vedere le condizioni per lavorare serenamente, per offrire pareri di alta consulenza scientifica in situazioni così complesse. Del resto ieri, commentando la sentenza del Tribunale dell'Aquila, Maiani aveva parlato di folli pressioni mediatiche e giudiziarie, di profondo errore, perché le persone condannate hanno agito in buona fede, hanno sempre detto che i terremoti sono imprevedibili. A questo punto sono attese anche le dimissioni degli altri attuali vertici della Commissione, come quelle del vicepresidente Rossi e del presidente emerito Zamberletti. E intanto critiche arrivano da parte della comunità internazionale, che definisce la sentenza assurda e pericolosa, di verdetto clamoroso parla la Union of Concerned Scientists, un influente ONG statunitense che chiede l'intervento del Presidente della Repubblica Napolitana e critica anche dal Giappone, impossibile prevedere un terremoto, commentano gli esperti, sottolineando come in Giappone non ci siano mai stati processi simili. E per il momento è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi, naturalmente torneremo in giornata ancora su questa vicenda, ma c'è anche un'altra emergenza nella quale più o meno si parla di responsabilità ed è l'alluvione un anno fa nelle Cinque Terre e allora è tornata in quelle zone. Raffaella Calandra, buongiorno anche a te. Sì Anna, buongiorno. Oggi qui splende il sole e splendono tutte le Cinque Terre che esattamente un anno fa furono invece travolte da un fiume di fango. Quell'alluvione che uccise 12 persone in tutto lo Spezzino, ora a Monterosso la vedi nelle impalcature intorno alle case, nei piccoli cumuli di terra ai lati delle strade o nelle foto che qualche negozio espone insieme ai souvenir. La vedi ancora nella chiesa di San Giovanni Battista, le cui mura segnano il livello della terra, ma la vedi soprattutto nella paura che ciascuno ammette di provare ad ogni pioggia, perché qui il vecchio canale è stato rimesso a posto, ma abbiamo ancora 60 frane aperte e pochi soldi abbiamo avuto, denuncia con Radio 24 il sindaco Angelo Betta, che ascolteremo tra poco all'interno di Italia in Controluce. Anna. Grazie, appuntamento allora con le Cinque Terre alle 13.30. Altra pagina per noi invece, altra inchiesta a Napoli, sotto indagine l'ex ministro Scajola per gli appalti a Finmeccanica. Questa mattina sono scattati arresti. 18 milioni di euro, quale corrispettivo per le forniture Finmeccanica a Panama, promessi al presidente Riccardo Martinelli, e quanto viene contestato nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del dirigente Finmeccanica, Paolo Pozzessere. Le forniture, per un importo di circa 180 milioni di euro, riguardavano il sistema di vigilanza costiera, cartografie del territorio e 6 elicotteri. Pozzessere è accusato di corruzione internazionale in concorso con Walter La Vitola, super consulente di Finmeccanica. Il coinvolgimento di Pozzessere risale all'estate del 2011, ai giorni in cui esplode il caso La Vitola Tarantini e la Procura di Napoli ipotizza il ricatto ai danni dell'ex premier Berlusconi. Le intercettazioni fotografano uno scenario di corruzione internazionale dietro le commesse di Finmeccanica. Le indagini che hanno portato all'arresto di oggi riguardano inoltre anche una fornitura per un ingentissimo importo di navi fregate al Brasile. Indagato l'ex ministro Scajola per il reato di corruzione internazionale per un suo presunto tentativo di mediazione nell'affare. Sono stati perquisiti inoltre l'ufficio e l'abitazione di Paolo Graziano, presidente degli industriali di Napoli. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un'altra ultima ora, perché la Guardia di Finanza, su incarico invece della Procura di Torino che indaga su Fonsai, sta eseguendo in questi minuti perquisizioni a Roma nella sede dell'ISVAP, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ed in particolare nell'ufficio del presidente Giancarlo Giannini, al quale è stato notificato un avviso di garanzia. Poco fa la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge sulla diffamazione. Allora Andrea Viali. Sì, buongiorno. Dovrebbe approdare domani, a questo punto, all'esame dell'Aula del Senato, il contestato disegno di legge che riforma il reato di diffamazione a mezzo stampa. Come dicevi poco fa, dopo molte polemiche, la Commissione Giustizia di Palazzo Madama ha approvato il testo all'unanimità, ma con una serie di modifiche. Le multe restano da 5.000 a 100.000 euro, ma è stato approvato un emendamento secondo cui saranno commisurate alla gravità dell'offesa e alla diffusione della testata. È stata poi esclusa la cosiddetta norma anti-Gabanelli, che rendeva nulle le clausole e gli accordi che accollano all'editore eventuali risarcimenti danni, sollevando invece i giornalisti dalla responsabilità civile, e sono salvi anche i blog ai quali non si applicherà la nuova disciplina. Il disegno di legge, lo ricordiamo, era nato per eliminare il carcere per i giornalisti, e questo era avvenuto dopo la condanna a 14 mesi di reclusione inflitta al direttore del giornale Sallusti. Però, secondo diversi giuristi e associazioni che si battono per la libertà di stampa, le multe severe e una serie di altre misure punitive inserite poi nel provvedimento lo hanno di fatto trasformato in una nuova legge bavaglio, contro la quale il sindacato dei giornalisti ha organizzato anche un sit-in di protesta all'esterno del Senato in vista del suo approdo in aula, appunto. Per ora è tutto. Grazie, grazie ad Andrea Viali. E dalla politica italiana andiamo invece a quella oltreoceano. Governatore Romney forse dovrebbe studiare un po' come funziona il nostro esercito. Ha detto: abbiamo meno navi che nel 1916, se per questo abbiamo anche Meno cavalli e meno baionette. La battuta che sentite quella è una di quelle più riuscite dell'ultimo confronto TV tra Obama e Romney a 15 giorni ormai dalle elezioni per la Casa Bianca. Secondo i sondaggi l'ha spuntata Obama, per la CNN con il 48%, per la CBS addirittura con il 58%. Torneremo a parlarne America 24 come sempre alle 13:45. Di tutto questo abbiamo già parlato, riprendiamo invece dalle regioni che ormai vanno verso il voto, vicinissimo al voto in Sicilia, e allora facciamo il punto, Elisabetta Fiorito. Sì, Sicilia al voto domenica, un voto difficile soprattutto per il centrodestra, anche perché il risultato siciliano avrà ritorsioni sulla tenuta del PDL e su quella anche del segretario nazionale Angelino Alfano. Gli ultimi dati danno un testa a testa tra i candidati di centrosinistra Crocetta e di centrodestra Musumeci. Il candidato di centrodestra oggi interviene contro la criminalità organizzata che definisce la prima diseconomia della Sicilia. Musumeci schiera quindi la cultura della legalità per lottare anche contro l'asse di ferro tra PD e UDC, un'alleanza determinante anche per eventuali schieramenti in vista delle politiche di primavera. Nel PDL però sono convinti che l'elettorato moderato di Casini non voterà l'alleanza di centrosinistra. A questo c'è da aggiungere anche lo smarcamento di Grande Sud di Gianfranco Miccichè, l'autore del 61-0 per il centrodestra nel 2001, si presenta come indipendente alla carica di governatore siciliano. Infine bisogna calcolare l'arrivo del Movimento 5 Stelle dopo la traversata a nuoto dello stretto di Messina. Beppe Grillo continua ad animare le piazze. Tutto ciò si ripercuote anche ad Arcore, dove Silvio Berlusconi ha convocato ieri i suoi e l'idea è quella di tornare a Forza Italia e di seppellire il PDL, una scelta che metterebbe spalle al muro gli ex DN, ma il test determinante per il centrodestra sarà proprio la Sicilia, sarà proprio domenica. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. In attesa del test siciliano va verso il voto anche la Lombardia. Dopo il varo della nuova giunta Formigoni e tregua armata tra Lega e PDL, da venerdì consiglio in seduta ad oltranza per approvare la nuova legge elettorale. Solo Melina per guadagnare tempo, protestano le opposizioni. Il capogruppo del PD in regione Lombardia, Luca Gaffuri, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Si capirà effettivamente se c'è la possibilità di andare ad approvare effettivamente una legge elettorale, perché se la Lega dovesse presentare un'infinità di emendamenti è evidente che non ci sono né i tempi né la volontà di approvare una legge elettorale. A quel punto chiediamo coerenza ai consiglieri del PDL, che avevano detto che erano disponibili alle dimissioni, ad aggiungersi alle nostre in modo da chiudere questa esperienza. Se invece si andrà nella direzione di approvare la legge elettorale, subito dopo l'approvazione della legge elettorale ci si reca al protocollo e si chiude questa esperienza attraverso le dimissioni. Voi vigilerete sull'eventuale allungamento dei tempi? Noi l'abbiamo detto, siamo disponibili ad approvare una legge elettorale che tolga il listino. Se invece la Lega ha solo come obiettivo di rinviare il più possibile le elezioni, non ci presteremo assolutamente a questo gioco. Ovvio che per poter far questo ci servono anche numeri del PDL. O si approva la legge venerdì o si va alle dimissioni, assicura però il capogruppo del PDL in regione, Paolo Valentini. Anche noi diciamo che per approvare questa legge elettorale bastano poche ore, l'accordo sui punti fondamentali era già raggiunto, non si capisce bene il perché di questa convocazione. Per quanto ci riguarda, se la legge elettorale non verrà approvato entro venerdì ci saranno le dimissioni comunque, perché si capirà che è ostruzionismo e che non serve a nulla andare avanti. Sono confermati i 300 emendamenti della Lega? Il termine per presentare gli emendamenti scade giovedì a mezzogiorno e quindi fino ad allora non le so dire con che intenzione hanno i colleghi della Lega. Ripeto, l'accordo in commissione era stato raggiunto, ci sono stati questi emendamenti. Se si dovessero ripresentare in aula è chiara la volontà ostruzionistica, qualcuno si assumerà la responsabilità di far votare i cittadini lombardi ancora con la vecchia legge elettorale con il listino, ma noi non sopporteremo ulteriormente perdite di tempo. E prima di chiudere vi facciamo ascoltare una pubblicità, ma di quelle che fanno notizia. Quando studiavo io, C'erano i libri di carta, le lavagne con quello che state ascoltando è uno spot del Ministero dell'Istruzione con la voce fuori campo, la sentite, di Roberto Vecchioni, che spiega il valore della scuola pubblica. Peccato che il video sia stato girato alla Deutsche School, ovvero la scuola tedesca di Milano. Una scuola privata, insomma. Su YouTube e su Twitter, dove le immagini sono state riconosciute, si sono scatenati i commenti critici nei confronti di una scelta definita quantomeno inopportuna. E con questo e con questa riflessione chiudiamo questa edizione di GR24, in regia Matteo Comes, da Anna Migliorati ancora una buona giornata, vi ricordo GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Roberto Benigni torna su Rai 3. È stato raggiunto infatti l'accordo tra la Rai e il premio Oscar, che ne ha annunciato i dettagli ieri sera al TG1. Sentiamo Benigni. Il 17 dicembre, se lo deve segnare, non deve prendere impegni. C'ha una biro, segni 17 dicembre, programma di Roberto Benigni, Rai 1, non prendere impegni, cene, amici, perché... Ma la gioia proprio, la gioia di presentare un programma che si intitola La più bella del mondo. È proprio... Allora glielo dico lei, perché la più bella del mondo è la nostra Costituzione della Repubblica Italiana. Una cosa impressionante. Sono andato a leggerla, è molto conosciuta, ci sono anche alcuni politici che la conoscono. È un libro straordinario. Io finora mi sono occupato di Dante, no? È il cielo di Dio, no? E qui siamo nel cielo degli uomini. Una cassita cichitita, sì. Ci sono anche la versione spagnola di Attenti al lupo, quella inglese di Piazza Grande, e il primo provino di Nuvolari è quello di Cara, oltre a un paio di brani inediti solo in Germania, in cui Dove il mare luccica, una raccolta delle canzoni di Lucio Dalla in uscita il 27 novembre prossimo. Molto più di un classico best-of o di un greatest hits, 3 CD, 4 nella versione deluxe, che fotografano tutta l'opera dell'artista. Esce oggi in tutto il mondo Tony Bennett, Viva Duets, il nuovo album del crooner americano che propone duetti con i migliori artisti latini, da Gloria Estefan a Vicente Fernandez e molti altri ancora. Bennett è vincitore di 17 Grammy e questo album arriva dopo la pubblicazione di Duets e Duets 2, molto apprezzati dalla critica, ed entrambi vincitori del disco di platino. I remember when we broke up, the first time, seeing this is it, I've had enough. Si intitola Red, il nuovo CD di Taylor Swift. A svelarlo è stata la cantautrice americana in una live chat su YouTube. L'album, che contiene 16 canzoni, ha debuttato al primo posto nella classifica di iTunes Italia e da oggi sarà anche nei negozi. Il primo singolo, We Are Never Ever Getting Back Together, è schizzato subito in testa in 27 paesi, battendo il precedente record detenuto da Lady Gaga. Una Venezia rocambolesca che fa da scenografia alla Gioconda, il capolavoro di Amilcare Ponchielli, che torna dopo 20 anni all'Opera di Roma, da oggi e fino al 31 ottobre. Ad interpretare il cattivo Alvise Badoero, Roberto Scandiuzzi. Sentiamolo al microfono di Elisabetta Fiorito. È una Venezia molto particolare, quello che era l'ambiente veneziano del periodo, del momento, dove c'era vita di strada, vita di nobiltà, vita di miseria, come in realtà poi si ripete nella storia di ogni giorno. Il mio ruolo sarebbe quello della classica persona che in quel momento aveva il potere di vita e di morte su tutti. Sposo una mia pari, diciamo una nobile, che naturalmente per quelle che sono le vicissitudini della vita si innamora di uno giovane bello, pieno di entusiasmo, e io ovviamente devo ostacolare la cosa per anche rispetto di quella che è il mio casato, il mio titolo, la mia posizione sociale. Faccio la parte del cattivo in realtà. Io ammetto che la parte del cattivo mi riesce piuttosto male, perché non sarei cattivo di fondo, però siccome Ponchielli ha messo delle pagine musicali ben precise, se ci si mette a studiarle e a capirle, il carattere viene fuori. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli, un saluto da Adriana Fracchia.